No. Ah, già eri tu già. Ciao Antone. Ero in cucina e mi stavo apprestando a preparare qualcosa per la cena. Come ti anda? Bene, stavo facendo un pensiero, ma magari sto dicendo, cioè sto passando, mi stavo dando un coglionato in testa. Una cosa che stanno pubblicizzando in pratica, che riceve la frequenza della polizia, i cosi, poi quell'altro, eccetera, eccetera. È vera o non è vera? Di quelle Bofeng V5, insomma, non ricordo che modello è. Allora, mi ha contattato anche un altro CB per sapere informazioni. Allora, di ascoltare comunicazioni criptate delle forze dell'ordine ve lo scordate. Non esiste proprio, anche perché con sistemi criptati a livello militare cambiano la chiave di criptatura, credo, ogni passaggio che fanno. C'è chi trasmette via la nuova chiave di decifrazione, di decrittazione a tutte le altre radio, quindi non esiste sulla Terra per ora. Infatti me lo sono immaginata, guarda, hai capito, perché lui ascolti la polizia, i COS, tutto in pratica, cazzo, la forestale, i carabinieri, no, i carabinieri non li hanno nominati, la verità, però polizia, eccetera, eccetera, si ascolta tutto, eccetera, eccetera, ma è arrivato, sembra molto strano, cazzo, che, cioè, se tu la pubblicizzi una cosa del genere, a parte, c'è un problema, devi stare zitto, perché se no immediatamente, cazzo, non te lo fanno vendere, il discorso è quello, hai capito con che perché sono adesso, quindi a un certo punto sono tutti quanti cazzati, ecco da lì che infatti ho pensato a te. Secondo me questo si è inserito con gli onati francesi, questo di WhatsApp, hai capito? Polizia, vigili urbani, e poi cosa cazzo c'era, aspetta, forestale, le ambulanze, c'era poco di roba, cazzo, ma all'incazzo, cazzo. Allora, dovevo andare a far culo, cazzo, che non è possibile, non c'è bisogno di programmarlo, ho detto, cazzo, è già programmato, ma che cazzo c'è? Programmi, cazzo, sono programmi a mano, cazzo, poco computer, ma cazzo, è davvero. Infatti tu mi hai detto che è stato pubblicizzato, allora dimmi dove è stato pubblicizzato, da chi è stato pubblicizzato e che cosa hanno detto, come è stato pubblicizzato, vediamo, in quali termini. Su Facebook stanno pubblicizzando, c'è un tipo che sta pubblicizzando quella panica lì, è un V5, non mi ricordo cosa cavolo era, comunque sia, in pratica è... Non c'è bisogno di fare niente, hai capito? In pratica né di programmarlo né niente, come se fosse già programmato, hai capito? Riceve la polizia, poi riceve il cazzo da forestare, riceve il cazzo di ambulanza, riceve questo, riceve quell'altro, tutto lì. Ma io a verità non ci credo, anche perché io ho lo V5 di Plus, a verità. E non pigliamo un cazzo, prima di tutto, ma comunque, questo non so dove cazzo se l'abbia inventato, ma comunque, è così. Su Facebook stava, o su Marketplace, basta che guardi lì, controlla quella pubblicità lì e lo vedi subito. Sì, allora Facebook non ce l'ho, no, non mi scrivo, se dovessi iscrivermi a ogni cagata che c'è online riceverei un miliardo di notifiche al giorno. No Antonella, ti spiego, io l'ho vista la foto, me l'ha mandata un CB, mi pare si chiami UV5RH, praticamente è un volgarissimo dual band VHF UHF che fa 100 analogico, che fa 136, 174, poi 400, 520 in trasmissione. Il resto che ha è che riceve le bande VHF bassa, tipo 70 MHz dintorni, completamente inutile perché ormai le forze dell'ordine che utilizzavano quella fetta di frequenza sono in tetra, della criptate, e quindi niente. Poi riceve la banda aerea, e vabbè, la banda aerea è in AM, a chi piace riceverla, per me è una gran cagata. Poi riceve l'aeronautica militare intorno ai 220-260 MHz lì, diciamo ci sono le comunicazioni, dovrebbero esserci le comunicazioni in AM, come gli aerei sono nella aeronautica civile, lì c'è quella banda a 2, adesso non mi ricordo, quella fetta lì 220-260, dove in quella in mezzo lì ci dovrebbero essere mezzi dell'aeronautica militare. Ti faccio un esempio terra a terra: quando ci sono le frecce tricolori, se tu becchi la frequenza giusta puoi ascoltare i piloti che comunicano tra loro con la o con l'operatore a terra in AM, come gli aeroplani normali, ma non senti niente interessante. Poi riceve anche i 350-390, che è una banda che credo già fosse usata da forze dell'ordine e quant'altro, ovviamente più che mai sarà tutta criptata, quindi anche lì è inutile. Poi riceve, aspetta, dove siamo arrivati? 380-390, poi vabbè c'è la UHF normale, quindi te l'ho detto, è un volgare VEU che trasmette lì e poi riceve UHF bassa, inutile. Banda aerea, a chi piace. Poi banda aerea militare, a chi piace, tanto danno comunicazioni estremamente semplici, no? Sto atterrando, sto decollando e basta. E poi la VLU, non so se abbia gli 800 MHz, 800-900 MHz, quello non lo so, e comunque sarebbe inutile perché non c'è niente di in chiaro da ascoltare anche lì, capito? E per il resto è un portatile che ha 10 watt. 10 watt sono le solite bande VLU, basta. Non praticamente, o c'è qualcuno che lo sta promuovendo per venderlo, cioè ne ha preso una quantità, lo sta spacciando come che ricevi tutto, invece no, non riceve tutto. Anche i servizi civili sono in digitale, se vai a vedere ormai ambulanze e così, solo la tipi di Sassa mi pare in chiaro, quindi niente da fare. Tutto per quello, e te l'ho detto. No, anche perché se esistesse veramente una radio del genere che decritta al volo le comunicazioni di quel tipo, l'avrei già comprato ovviamente. Ma è quello il problema, cioè tu lo vai a dire in pratica, se stai prendendo un apparato che riceve la polizia, il coso, la forestale, tutto quello roba lì, ma secondo te cazzo, a un certo punto non vengono i carabinieri, cazzo, ti sequestrano tutto, cazzo, non è possibile, hai capito? Non puoi venderlo, hai capito? Leggi adesso purtroppo, non lo puoi vendere l'apparecchio del genere. Tutto lì, quindi sono tutte cazzate quelle che sta raccontando con lì, hai capito? Allora vai, cazzo. Cioè, se io ricevo la polizia di carabinieri, secondo te, cazzo, non è che cazzo tu, cazzo, ti sequestro tutto, cazzo, a un certo punto. Non sto scherzando, cazzo. Specialmente come leggi adesso, cazzo. Beh, Antonio, tanti anni fa, quando erano tutti in analogico, vendevano tranquillamente ricevitori su tutte le bande, prendevano tutto quanto. Il problema non è la vendita, il problema è l'uso che se ne fa. Cioè, sei responsabile tu se poi vai a cascettare o a raccontare quello che ascolti, se ti ricordi cosa riceva la vecchia SWL. Dice in caso di comunicazioni casualmente ed involontariamente criptate dovevi in pratica farti fatti tuoi, non andare a dire ho sentito questo, ho sentito quell'altro, capito Antonio? Guarda, ormai in chiaro ci sono dei rari servizi che approntano, che ne sono una frequenza per emergenza, per esempio qualche anno fa quando c'erano gli incendi grossi in Sardegna, sui 169 MHz c'era un canale in chiaro, poteva essere l'antincendio, la forestale, non me ne intendo. Così come tanto si sentono anche quelle frequenze di interscambio di vigili del fuoco ogni tanto per comunicazioni tipo da dentro a fuori, fanno un intervento in una casa, potresti al limite sentirli che col portatile parlano col mezzo, capito? In chiaro. Tutto, sono cose sporadiche, occasionali e eccetera. Capito Antonio? Sono finiti i bei tempi. Già lo so, non ti preoccupare. Ci manca. Poco fa sono andato a farmi la spesa, poi sono tornato a casa e sulla frequenza 0, cioè 446, 0.93, mi capita che c'è quel circolo che ho di fronte a casa, capito? Due bambine parlando, vabbè, non me ne fregavo niente di quella, ma comunque sia, lo usano per lavoro. Comunque siccome quegli apparati potrebbero essere anche analogici e digitali, questi professionali, è probabile che se hanno problemi digitali, problemi temporanei, possano switchare, selezionare l'analogico, ma è per brevi momenti. È una teoria mia questa, ma è probabile. Magari se tanto sì, quello lo riconosco, ma comunque sia, adesso vedremo. Terapia giù, sì, terapia giù, sì. Purtroppo, ci bravo con tutte le cose che abbiamo, come si dice, no, a un certo punto. Poi guarda, in questi ultimi tempi ha fatto furore quel Quansheng, di cui non ricordo la sigla, è un Quansheng che praticamente con il firmware modificato, lo trovi in rete, magari anche dal produttore, puoi allargare a dismisura la ricezione e in alcuni casi anche la trasmissione di quel piccolo portatile. Per esempio puoi andare anche in 27 a ricevere, mi pare anche a trasmettere, cioè lo puoi ampliare di banda, però alla fine, cioè a trasmettere bisogna trasmettere sempre sulle bande autorizzate, in teoria, no? Per ricevere più che radioamatori in chiaro ormai non si riceve quasi niente, quindi inutile che ricevi dai 20 ai 1000 MHz se poi non c'è niente in chiaro di ricevibile. Non mi ricordo neanche che modi di emissione potevi fare con quell'apparato, comunque era molto versatile. Beh, di questo Quansheng è uscita la coppia della Baofeng, che però non è l'UV5RH, ha un'altra sigla ed è la coppia sputata di questo Quansheng che ha avuto successo in questi tempi, che tutti sempre fanno un gran parlare, larga banda, ricevi tutto e non ricevi niente, alla fine ricevi di utili radioamatori, la 27, in chiaro dico, no? Sì, la banda aerea che me la sbatto ai marroni e basta. Antone, io ti devo lasciare che devo mangiare, dai. Va bene, non c'è problema, là. Ora c'è la buttuta. Si chiama limite dopo, senti, se no a domani, là, non c'è problema. Ehi, vedo un po'. Antone, poi, ma tu l'hai reddito, l'hai già ricevuto, sì o no? No, per sapere quando volevi prendere, che ne so, il palo, le staffe che mi avevi detto. Voglia, 3.331. Ah, sì, ho capito. È vero, me ne avevi già parlato, me l'ero già dimenticato. Figurati. Ok. Vabbè Antone, io adesso vado a mangiare, dubito che entrerò dopo però, perché mi stavo preparando dei film da vedere. E quindi dai, ci sentiamo. Un saluto, buon proseguimento di serata, buon tutto, alle prossime. Sì, va bene, non c'è problema. Adesso vedo un pochettino di problemi, ti provo a mammi, devo cambiare le loro cose, vabbè, prima devo fare un lavoro, ma è tutto poi a casa. Poi dopodiché, con quella cifra lì, mi tocco, mi sistemo la casa, la verità, casa mia, la tingo, eccetera, eccetera, proprio la tinta, non faccio come gli altri, no, perché se vado in giro, quando ho due case, no, non ho toccato a me, di quello, non mi interessa proprio niente, a un certo punto, mi si è fatto così. Mi sistemo tutta la casa, poi si vedrà. Sì, va bene, ciao Antone, ci sentiamo. Ah, un'altra nota di quell'apparato, sì, 16 watt, banda allargata in ricezione, però qualcuno si è lamentato che è grande e pesante, è più grande del normale UV5R, l'hanno considerato ingombrante e pesante. Va bene, ciao Antone, ci sentiamo. Ok, ci sentiamo, stanno bene. A dopo, sente, se no pazienza, se no domani. Va bene, ciao.